It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Take a look at the 5 and 10. Mercoledì 8 dicembre, buongiorno, bentornati di nuovo a tutte e tutti i nostri teleradioascoltatori su Liberi Dentro e Eduradio TV, il nostro programma che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda un'ora al giorno tutti i giorni su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. E do il buongiorno anche a te Antonella, che hai un compito di aprire la 8ª casellina del calendario dell'Avvento. E prima di tutto buongiorno a tutte e a tutti, ciao Caterina. E sì, oggi la nostra casellina si apre sulla solidarietà per bambini e padri detenuti, perché grazie al gruppo di solidarietà EOS e della cooperativa COP THC, Together Let's Help the Community, in collaborazione con l'Istituto Penitenziario di Massa Marittima, si potrà donare un proprio giocattolo, ovviamente in buone condizioni che non preveda l'uso di batterie, contattando appunto il gruppo Solidarietà EOS, che provvederà, dopo averlo sanificato e sistemato, a consegnarlo al carcere massetano. Gli ospiti della struttura potranno a loro volta, quindi i genitori, regalarlo ai propri figli in occasione delle festività. E l'iniziativa andrà avanti non soltanto in occasione del 25 dicembre, ma sarà costante tutto l'anno, quindi se volete potete chiamare e consegnare sempre il vostro giocattolo. I bambini e le bambine che durante le festività e anche successivamente entreranno nell'istituto penitenziario per far visita al proprio papà porteranno a casa il bellissimo dono che è il giocattolo, ma soprattutto il ricordo di un abbraccio e di qualcosa dedicato direttamente a loro. Telefonate se volete fare questa donazione al numero 370 3792 052. Grazie Antonella, è una bellissima iniziativa e ritorniamo subito sulle notizie di oggi. Leggiamo da La Repubblica a firma di Erika Manna: il dramma droga nelle carceri, da Genova la ministra Dadone rilancia la lezione di Don Gallo. Sì, perché questo è un dato che allarma tantissimo il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, dato che un detenuto su tre si trova in carcere per spaccio e quasi altrettanti, pensate il 26%, soffrono di dipendenza da stupefacenti. E questo perché le carceri italiane scoppiano, eppure ci sono 271 persone dietro le sbarre condannate a una pena inferiore a un anno e ben 1603 persone da 1 a 3 anni, quando invece, ha calcolato l'associazione Antigone, lo Stato risparmierebbe ben 300 milioni di euro all'anno se ricorresse alle misure alternative che sono previste, ma non vengono messe in atto a sufficienza. Scusa, la legge che cosa dice su questo punto? Allora, sul tema c'è l'annosa legge ormai del 1990, la 309, chiamata Testo Unico sulle Droghe, ed è un testo le cui fragilità hanno trovato eccessi di robustezza, se vogliamo dire, nella risposta delle istituzioni segregative. E questo è quello che ha detto proprio il garante Mauro Palma. Siccome ha poi continuato, in questi anni il comportamento non omologato si è definito attraverso la penalità, e questo va a colpire anche dopo il carcere e incide in particolare sullo stigma sociale delle persone. Ma non è stato l'unico a intervenire su questo, dato che ha incalzato anche Patrizio Gonnella, che è il presidente di Antigone, dichiarando che la vita del tossico in cella è doppiamente sofferente e quindi bisogna recuperare la complessità, bisogna cambiare la legge 309, che è incentrata su un meccanismo punitivo, e tutto questo insomma non va a favore né della società né delle persone. E lui ha aggiunto anche: spero che con il referendum sulla cannabis si possa aprire un dialogo sulla questione della libertà di massa, anche perché, ha attaccato, non mi pare che i narcotrafficanti abbiano trovato vantaggi dalla situazione legislativa attuale. Senti, e a quali soluzioni si può arrivare attraverso delle politiche nuove, innovative contro le dipendenze? Ma allora, per la ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone bisogna pensare in grande, ha detto così citando appunto il prete di strada Don Gallo, che ha fondato, uno tra i primi ad aver fondato una comunità di strada per le persone, gli ultimi della società, tra cui le persone tossicodipendenti, la comunità San Benedetto al porto di Genova. E però sullo sfondo ci sono i dati di una crescita esponenziale nel consumo di sostanze, ed è questo anche l'allarme, ecco, di Associazione Antigone. Nel 2019 2020 sono state sequestrate, pensate, 58 tonnellate di stupefacenti e si è stabilito il record assoluto di sequestro di cocaina, ben 13 tonnellate. Quindi è proprio lì, nelle carceri, che si misura anche il fallimento dell'approccio punitivo della legge esistente, e il carcere dovrebbe essere il primo posto per effettuare un vero e proprio cambio di passo. Tra quelle proposte che tu chiedi, ecco, c'è quella di sottrarre all'azione penale la coltivazione della cannabis per uso personale e la cessione senza finalità di lucro, e poi escludere la previsione dell'arresto obbligatorio, eliminare il criterio tabellare del superamento delle soglie per uso personale. La proposta è quella di includere queste azioni come atti di natura sanitaria nei regolamenti di istituto, quindi un trattamento integrato e continuo. Ci auguriamo che sia così, e intanto, mentre aspettiamo le prossime notizie, con te Antonella lanciamo una canzone, Stevie Wonder, Living for the City, a tra pochissimo. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Eccovi, bentornati sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Continuiamo la rassegna delle nostre notizie, ora con Antonella che ci parla del caso straordinario nella vicenda della tennista Peng Shuai. Eh sì, Caterina, perché Peng Shuai è la giocatrice di tennis che ha subito la sorte che in Cina in realtà tocca chi infrange un tabù e che puntualmente sparisce nella macchina repressiva. Nel migliore dei casi queste persone ricompaiono dopo un poco, dopo qualche mese, come nel caso del fondatore di Alibaba, Jack Ma, oppure della star del cinema Fang Bingbing, accusata di frode fiscale e liberata dopo il pagamento di una grossa cifra e ovviamente un ringraziamento formale rivolto a Xi Jinping. Raccontaci un po' qual è questa vicenda che sta girando sulle pagine di tutti i giornali. Peng Shuai aveva accusato di stupro Zhang Gaoli, che è l'ex vice premier ma soprattutto è un esponente del comitato permanente dell'ufficio politico del Partito Comunista. durante il primo mandato di Xi Jinping, che è ovviamente il presidente cinese. A dare fastidio in Cina è stata la denuncia, più che altro, mica tanto lo stupro. I 7 componenti del comitato, ovviamente tutti uomini, sono considerati intoccabili. Possono cadere in conseguenza di una lotta tra clan, un problema interno loro, ma non certo a causa della pressione da parte di una giocatrice di tennis. E la macchina repressiva ha imposto la solita punizione, cioè Peng Shuai è scomparsa. Le tracce della denuncia sono sparite da internet e il suo ritratto è stato addirittura cancellato dalla galleria dei campioni cinesi. Ma il regime non aveva previsto la reazione internazionale. Il partito infatti non aveva tenuto conto del fatto che il crimine denunciato da Peng Shuai si iscrive perfettamente nel movimento mondiale del hashtag MeToo. E inoltre, laddove nessuno può identificarsi con una star accusata di frode fiscale, appunto come la Bing Bing, oppure il miliardario poco gradito, però tutti possono solidarizzare con una sportiva vittima di abusi sessuali. E la Cina è stata colta di sorpresa e si è trovata molto più fragile e sensibile di quanto potesse prevedere a questa campagna. Effettivamente c'è chi ha parlato di un inizio del MeToo cinese, probabilmente, e come dicevi tu ci sono state effettivamente diverse dichiarazioni di solidarietà verso la sportiva. Eh sì, infatti Caterina, sicuramente non se lo aspettavano, però il secondo elemento sottovalutato appunto da Pechino è la solidarietà senza precedente degli sportivi di tutto il mondo, da Serena Williams a Naomi Osaka, nonché la reazione delle prime pagine dei vari quotidiani sportivi come l'Equipe in Francia e soprattutto quella dell'Associazione Mondiale di Tennis Femminile, che addirittura ha accettato il rischio di restare esclusa dal lucrativo mercato cinese perché non ci sarebbe andata, avrebbe boicottato. E la Cina è stata quindi presa di sorpresa e si è svegliata, come ti dicevo, più fragile, più sensibile di quanto immaginasse. E dopo la pubblicazione di foto e video, evidentemente messe in scena però, il 21 novembre il regime ha permesso una videochiamata tra Peng Shuai e il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, che si è prestato a un esercizio che avrebbe dovuto un po' chiudere il dibattito, perché poi infatti la tennista ha chiesto appunto a Bach di rispettare la sua vita privata e di non interferire. Guarda, già non è facile fare debunking di notizie in una situazione normale, e quindi ti chiedo, in una situazione di regime chiaramente, è credibile un ritorno di Peng Shuai come fanno vedere le televisioni? Allora Caterina, quello che sappiamo in realtà è che Peng Shuai è sorvegliata durante le sue apparizioni. E sappiamo anche che la Cina ama le confessioni televisive. Il suo ritorno, tra l'altro, sarebbe più credibile se la vicenda non subisse una censura totale in Cina, perché pensa che in Cina loro non sanno nulla, non le vedono queste cose, e se le foto e i video non fossero stati destinati unicamente al mercato straniero, diciamo al mercato all'estero, forse sarebbe più credibile. Pechino comunque vuole salvare la sua immagine, un po' ammaccata ovviamente, e soprattutto cominciare a rifarsi il trucco per i giochi olimpici invernali previsti tra meno di 3 mesi, che ovviamente nel contesto attuale rischiano seriamente di essere boicottati dagli occidentali. Il problema è che ormai il danno è fatto, la vicenda ha evidenziato l'arbitrarietà del sistema repressivo e il tabù persistente in merito agli abusi sessuali compiuti da individui più potenti. Su internet, infatti, Caterina, si parla di effetto Streisand, cioè dal nome dell'attrice che, volendo nascondere un'informazione, ha finito poi per portarla sotto la luce di tutti i riflettori. Pechino dovrà faticare ancora molto per far dimenticare una vicenda che mette in discussione quella esemplarità che il regime sostiene di incarnare. Ma proprio perché ti ho parlato di effetto Streisand, ascoltiamoci la famosissima Woman in Love di Barbara Streisand. E a proposito, aggiungo un'ultima cosa, continuate a seguirci perché dopo ci sarà l'intervista a Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone. The morning glow. Bentrovati di nuovo su Liberi Dentro ed Radio TV con la nostra ospite da ieri, Susanna Marietti, coordinatrice dell'Associazione Antigone, che ha cominciato a raccontarci qualcosa della difficile situazione del reparto psichiatrico sestante di Torino, che Susanna ha visitato, di cui ha parlato e che sembra che adesso stia praticamente chiudendo. Ieri abbiamo ascoltato un po' della storia che ci ha raccontato, appunto quello che ha visto, e quello che ha visto in realtà è anche un po' il degrado, l'abbandono, la paura e lo smarrimento dei detenuti psichiatrici. E diciamo che, come mi dicevi ieri, tu non sei di primo pelo perché ne hai visti tanti, ma queste situazioni in Italia sono così diffuse? Dimmi di no, per favore. No, a questi livelli no, a me mi ha scosso molto perché non, insomma, una situazione di degrado a questi livelli non l'avevo visto. Cioè, io ricordo che sono tornata con una sensazione così di ansia dalle visite alle carceri palestinesi, ecco. E per altri motivi lì c'era un sovraffollamento, cioè gente che in 70 in una stanza, cose così, con un bagno solo, e qui invece non era troppo lo spazio che mancava, per quanto queste celle erano minuscole, ma non c'era sovraffollamento perché erano tutti da soli in una stanza, ma proprio la solitudine, appunto, persone che non parlavano con nessuno, che nessuno andava lì a parlarli, e l'abbandono terapeutico totale. Senti, adesso che diciamo si sono un po' smosse le coscienze, mettiamola così, secondo te che cosa sono le cose da cambiare, ma dal più semplice e fattibile domani, per ipotesi? Perché poi ci sono anche delle cose banalmente amministrative che si possono mettere in atto, a qualcosa che invece è un po' più ampio, insomma potrebbe essere da riformare. Ovviamente tutta la parte edilizia, questa è la cosa che già si è mossa e che si poteva muovere tanto tempo prima, insomma, perché quel reparto è totalmente inadeguato ad avere delle persone che vivono dentro. Però ecco, non vorrei che si pensasse che cambiate due mattonelle, messa la turca dietro il paravento invece che a vista del corridoio, abbiamo risolto il problema, perché così sarebbe, cioè, il rimedio peggio del male, perché allora non si parla più di queste cose, l'abbiamo fatto, non c'è bisogno. La distrazione del sestante ha tolto poi attenzione a tutto il resto. Invece assolutamente non è così. Io credo che quello che, dunque, tu ponevi questi due livelli, cosa si può fare subito amministrativamente e cosa ha bisogno. È ovvio che la vera riforma è una riforma profonda anche delle coscienze, per esempio delle coscienze dei medici, che devono rispondere a quel giuramento di Ippocrate che fanno e sentirsi davvero il peso della presa in carico degli esseri umani. Però diciamo c'è una via di mezzo, si può raggiungere questo obiettivo più epocale anche attraverso, come dire, degli stratagemmi, li vogliamo chiamare così, per esempio i dirigenti sanitari di tutte le ASL, che sanno di avere nel loro territorio un carcere con un'articolazione psichiatrica dentro, possono andare domani in visita e vedrai come cambiano più facilmente le coscienze dei medici che stanno lì. Andare domani e dire agli psichiatri responsabili là: mi scusi dottore, lei questo qua della cella numero 28 come lo cura? E quello della 29? E quello della 30? Mi fa vedere la terapia? Che medicine diamo a queste persone? Quando è l'ultima volta che ha fatto un colloquio? Ci ha parlato? Mi spiega quali sono le sue aspettative, le sue prospettive, i suoi programmi per il futuro, la rete familiare? Lo sa qual è la rete familiare? Tutta quella presa in carico socio-sanitaria di cui parliamo è controllabile. Quindi questo è un intervento che sarebbe efficace e che sta un po' a metà fra i due, perché non si tratta semplicemente di mettere un po' di polvere sotto al tappeto e cambiare una mattonella, che pure vi assicuro è importantissimo, perché vivere con la turca a vista non si può fare, e però non si affida al cambiamento culturale epocale. Sì, infatti, basterebbe che ci fosse appunto una maggiore attenzione, ma semplicemente anche un po' di controllo forse su quello che succede, anche perché, come diciamo spesso noi a Eduradio TV, il carcere è una parte della città, cioè non è che sia una cosa abbandonata a se stessa, buttata lì, anzi ci passiamo davanti e neanche lo vogliamo vedere. Quindi invitiamo veramente i dirigenti dell'ASL a questo punto a buttarci un occhio, ad andare a vedere, a chiedere. Senti, ma qui poi arriviamo anche a un altro punto, secondo me, di svolta cruciale. Siamo passati dagli OPG, ospedali psichiatrici giudiziari, per chi non conoscesse l'acronimo, che dal 31 marzo 2015 sono stati, diciamo, soppiantati dai cosiddetti REMS, cioè le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Ma veramente, realmente, che cosa è cambiato, Susanna? Beh, gli ospedali psichiatrici giudiziari erano veramente sei lager che avevamo in Italia, erano dei posti indicibili. Quindi, insomma, la riforma era necessaria e meno male, anche lì sono state delle immagini che hanno scoperchiato, cioè alla fine è stata l'esperienza di una persona che in quel caso era Ignazio Marino, quando era parlamentare e che era responsabile proprio della commissione di riforma degli OPG, che andò fisicamente e portò, io ho portato fuori un racconto, lui portò fuori un filmato e indignò la popolazione talmente tanto che poi gli OPG furono chiusi. Le REMS non sono gli OPG, le REMS sono delle piccole strutture a vocazione esclusivamente sanitaria, dove vengono ospitate le persone che hanno una misura di sicurezza psichiatrica, cioè le persone che al momento della commissione del reato vengono indicate come incapaci di intendere e di volere, quindi non viene loro comminata una pena, ma una misura, se sono considerati socialmente pericolosi, viene loro comminata una misura di sicurezza e quindi vanno in queste residenze dove c'è una presa in carico di tipo sanitario. Sono molte, sono anche molto diverse l'una dall'altra, però io, quelle che io ho visitato, non c'è niente a che vedere né con l'OPG né con la sezione psichiatrica del carcere, dove invece nella sezione si chiama di osservazione psichiatrica del carcere ci va la persona che al momento della commissione del delitto era capace di intendere e di volere e quindi viene condannata con una pena, in questo caso una pena detentiva e quindi non con una misura di sicurezza, ha una pena e nella fase dell'esecuzione della pena sviluppa un disagio psichico, per cui viene mandata per 30 giorni in teoria in queste sezioni, dove viene osservata dai medici per capire di che tipo di cura ha bisogno, se c'è un'incompatibilità con il carcere deve andare a casa, se deve andare in una struttura esterna, cosa deve fare. Ho capito. Senti, diciamo anche un'altra cosa che mi sono sempre chiesta: secondo te la malattia psichiatrica può essere curata in uno stato detentivo, indipendentemente dal reato che hai compiuto? E quali alternative ci possono essere? Perché a me mi rimane sempre in mente che una persona che soffre è una persona che soffre. E quindi forse certe situazioni non agevolano la ripresa e la cura. Certo. Guarda, io però veramente non sono uno psichiatra e quindi posso rispondere solo in modo molto naif a questa domanda, non ti so dire. È chiaro che viene da dire anche a me, se una persona già sta male, la vogliamo tenere in un posto così malsano, ma malsano al di là, uno può creare pure il carcere più bello del mondo, ma rimane malsano come stile di vita perché è la privazione della libertà, no? D'altra parte il carcere è una punizione, la punizione è proprio la limitazione della libertà di movimento, non deve essere nient'altro. E quindi sì, mi viene da dire, bisognerebbe sempre avere una possibilità di cura esterna. Dopodiché capisco pure che è difficile, non è come non puoi scrivere in una legge chiunque dimostra di avere un disagio psicologico deve uscire subito automaticamente dal carcere, perché ovviamente io potrei decidere di farne di cotte e di crude, prendermi la mia pena e poi dimostrare di avere un disagio. Insomma, non è facile trovare questo equilibrio, però credo che un medico, uno psichiatra sappia dire dove sta questo equilibrio. Perfetto, grazie Susanna, restate con noi perché adesso continueremo la nostra trasmissione e arrivederci a domani. Ciao Susanna. Arrivederci. Rieccovi, bentornati, siamo giunti anche oggi a saluti di fine puntata, vi ricordiamo le nostre rubriche, oggi abbiamo l'equipe sanitaria del carcere, una puntata in replica e in questa puntata saliamo a bordo dell'unità mobile del programma dipendenze patologiche e assistenza alle popolazioni vulnerabili. E scriveteci, redazione liberidentro@gmail.com e come al solito un saluto da me che sono Caterina, da Antonella Cortese, dal nostro Enea Flacco al montaggio delle nostre puntate che ringraziamo sempre. E dalla nostra tirocinante Diana Bota. A domani e grazie a tutte e tutti. It's beginning to look a lot like... Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.